numeri, innanzitutto, cresce seppur di poco il numero di nuovi positivi, che si attesta sul migliaio di unità, ma in sostanziale stabilità con il giorno precedente. Aumenta di parecchio il numero dei guariti, che sono più di 2.000, le vittime sono oltre 500. Ma ancora una volta il dato che consegna speranze è quello sui ricoveri in terapia intensiva. Sono diminuiti di un centinaio di unità. Dunque si ragiona su cosa fare dopo. Come riaprire, come ripartire, con che modalità, con che tempi, in quali luoghi. La questione riguarda il quando, certo, ma soprattutto la strategia, perché il decreto liquidità arriva in Gazzetta Ufficiale. Se, come promette il ministro Gualtieri oggi in un'intervista al Sole 24 Ore, le procedure saranno rapide, alleggerirà la situazione delle aziende, che però a un certo punto avranno bisogno di tornare a produrre e vendere. Il dibattito è aperto. Così come sarà intenso il dibattito oggi pomeriggio, con l'Eurogruppo richiamato di nuovo a discutere di come l'Europa può sostenere l'impatto di Covid-19. Già, l'impatto di Covid-19. In molti hanno detto che nulla sarà più come prima, ma dall'Italia arriva un messaggio tranquillizzante, un segno di continuità. Ieri è crollato un ponte. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E come ogni mattina, care ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci di nuovo. Sono le 6:31 minuti di questo giovedì 9 aprile. E come ogni mattina partiamo con il nostro Bob Marley, con il nostro inno che ci dice, ci fa un po' di coraggio, ci dice che a un certo punto tutto andrà bene. Il paese è sempre lo stesso, ne abbiamo avuto testimonianza ieri con questo crollo di un viadotto sul fiume Magra, un viadotto che, stando a quello che dice il sindaco, stando a quello che dicono le autorità locali, insomma, ne avevano segnalato la pericolosità, avevano detto: oh, attenzione, qua vediamo delle crepe, ci sono dei rischi. Arriva l'ANAS, controlla e dice: no, vabbè, insomma, fa un rappezzo di asfalto e dice: no, no, tutto a posto, tranquilli. E voilà. Meno male che, viene da dire, meno male che c'è l'isolamento, e che c'era poca gente in giro, poca gente per le strade. Del resto, come ci racconta Maurizio Caprino, oggi sul Sole 24 Ore il monitoraggio della rete è a zero, la mappatura ancora non esiste. Già l'ANAS, eh? Oh, mi ricorda qualcosa questo nome ANAS, Mi ricorda il nome di un'azienda che si preparava a prendere in gestione eventualmente la rete autostradale nel caso di ritiro della concessione ad Autostrade per l'Italia. Facciamo un filo di attenzione. Ci arriviamo adesso a tutto questo. Intanto vi aspetto 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, soprattutto audio, le vostre voci. Fatecele sentire, fatemele sentire. Iniziamo però appunto dalle cronache da Covid-19, direi. Con la necessità di non abbassare la guardia, ribadita ancora ieri dal capo della Protezione Civile Borrelli. Ci impone di dire che dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e mettere in pratica tutti quei comportamenti che sono consigliati dagli esperti che vediamo anche qui nella nostra grafica per evitare la diffusione del virus. Così Borrelli, come si diceva, si ragiona un po' sulla fase 2, così viene definita. Il momento nel quale si proverà un po' a ripartire, a riaprire alcune cose. Quello a cui si guarda è soprattutto l'avere una strategia. Ieri girava un meme di Giuseppe Conte in conferenza stampa con scritto sopra sta per iniziare la fase 2, è come la fase 1 ma a maniche corte. Non sarà così naturalmente. Ieri in conferenza stampa ad affiancare Angelo Borrelli c'era Ranieri Guerra, che è componente, come sapete, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i nomi che ormai abbiamo imparato a conoscere, e fa parte del comitato scientifico a supporto del governo. Cosa dice sulla fase 2 Ranieri Guerra? Sentiamo. Ci sono una serie di linee che si stanno dibattendo in modo tale di fornire il supporto agli Stati membri che prescriva quali sono i requisiti minimi da rispettare per poter cominciare a parlare di fase 2. Mi spiego meglio: la capacità del Paese di identificare con assoluta certezza entro le 24-36 ore casistica sospetta, di poter diagnosticare e immediatamente avere una risposta. Sono criteri di popolazione, di indagine di popolazione, di presenza, se vuole, nel territorio, assolutamente pervasivi. Quindi, in assenza di questa capacità, la fase 2 è meglio che la discutiamo successivamente. Soprattutto la riapertura per fasi. Riaprire parzialmente quando ci saranno le condizioni minime e poi progressivamente, ma a distanza di un paio di settimane, procedere con riaperture successive, in modo tale di poter contenere la possibile riaccensione della fiammata epidemica. Così dunque Guerra, no? Un pensiero un po' articolato, ma giustamente articolato, perché ovviamente l'argomento è delicato, mescola la questione della salute con la questione del lavoro. C'è il fatto che, come si diceva in apertura, sì, ok, c'è il decreto liquidità. Se è come dice Gualtieri oggi sul Sole 24 Ore, le norme saranno operative subito. E però senza il lavoro, la produzione, lo stare sui mercati internazionali, insomma, è difficile. La liquidità da sola non basta, insomma, il quattrino ricevuto dalle banche non basta. Cosa dice ancora uno scienziato, in questo caso Galli del Sacco di Milano? Sentiamolo. Noi siamo stati capaci, il sistema è stato capace, gli ospedali sono stati capaci di moltiplicare i letti di terapia intensiva, gli spazi per i ricoveri in condizioni anche difficilissime. Io mi domando perché non si è stati capaci di investire nella moltiplicazione necessaria delle linee della diagnostica, che in questo momento, per poter ricominciare, sono fondamentali. Questo è il punto di Galli, no? Ci sta il ragionamento. È vero anche che abbiamo, insomma, col senno di poi è abbastanza facile, no? Abbiamo vissuto una fase, Galli lo sa perfettamente, perché poi a Milano, molto delicata. Adesso ragionare un po' più profondamente sulla diagnostica si dovrebbe. C'è anche la politica che parla su questo tema della ripartenza, Maria Elena Boschi di Italia Viva, Matteo Renzi è stato direi il primo politico a lanciare un po' la questione, ad aprire un po' la questione, sentiamola, va. Dobbiamo immaginare una riapertura graduale, un ritorno alla vita, non quella di prima, ma insomma a poter tornare a lavorare, poter tornare a scuola, poter tornare gradualmente ad una semi-normalità. Non sappiamo quando avverrà, ovviamente ci auguriamo che avvenga il prima possibile, ma lo faremo quando questo consentirà di stare tutti in sicurezza, ma compito e responsabilità della politica oggi è già immaginare con quali regole farlo, altrimenti rischiamo di arrivare in ritardo, come è successo per le mascherine, che sono arrivate ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine troppo tardi. Io so che in Claudio Velardi, buongiorno Claudio, come stai? Bene, grazie. Troverò una certa assonanza con queste posizioni, No, guarda, devo dire, io sono stato colpito adesso stamattina dalle parole di Galli di qualche minuto fa, che trovo giuste, cioè noi dobbiamo adesso impegnarci sulla diagnostica seria, cioè dobbiamo prendere ad esempio le 3T coreane, cioè tracciare, testare, trattare, questo bisogna fare. È molto più importante questo che non diciamo impegnarsi in una gara di fioretto sulle date di apertura. In questo senso, come vedi, condivido quello che dice la Boschi, nel senso che noi dobbiamo tornare a parlare di futuro, quindi dobbiamo progressivamente riaprire e così via, ma lo dobbiamo fare innanzitutto impegnandoci su questo, perché altrimenti tutta la discussione è un po' falsata, è un po' drogata. Adesso il problema è che noi dobbiamo essere sicuri che si fa il tracciamento, che si testano le persone, tutti quanti noi, e che poi vengano trattate quelle che devono essere trattate. Fine, chiuso. Dopodiché su questa base noi possiamo procedere, anzi dobbiamo procedere, a tutte le riaperture possibili nei tempi più brevi possibili. Sì. Questa, diciamo, mi sembrerebbe la cosa saggia da fare. Sì, la sostanza è questa, semplicemente, Claudio. Avere una strategia, no? Una strategia per l'uscita. Cioè, non è tanto appunto una questione di date, dire ripartiamo il 3 maggio. Tu devi poter dire ai lavoratori, alle aziende e agli italiani in genere, dire guardate, da questo momento in avanti, a quando saremo dotati di questi strumenti, da quel momento potremo iniziare a ragionare e dirvi cosa riparte, cosa non riparte. Oh, nel frattempo sono riaperti e sono ripartiti i cantieri della metro 4 di Milano, a testimonianza che, come dire, la Lombardia molto colpita, però continua a spingere. C'è stata qualche protesta sindacale naturalmente anche su questo, però controlli della febbre, protezioni, distanze mantenute e i cantieri della M4, della metro 4 di Milano ripartono. Cos'altro su questo fronte, no, non proprio su questo fronte. Vi voglio far sentire di nuovo Galli. L'audio non è un granché di Galli, però ha detto tutta una serie di cose interessanti nella giornata di ieri. Adesso poi vi dico in quale talk show esattamente. Sulla questione delle mascherine, sulla quale stiamo diventando matti dall'inizio di questa vicenda, perché prima gli esperti ci hanno detto che no, non c'era alcuna necessità, poi abbiamo scoperto che sono diventate fondamentali, poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che no, in realtà non sono proprio così fondamentali. Galli. Quando si dice cittadini mettete la mascherina, si dovrebbe essere in grado di fornire la mascherina ai cittadini. Altrimenti, voglio dire, l'indicazione è un'indicazione tipo grida spagnola, quando si diceva fate questo, fate quell'altro, nelle condizioni in cui il cittadino poteva essere soltanto inadempiente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in maniera secondo me assai ipocrita, ha dichiarato che sul discorso mascherine, diciamo che non sono poi immediatamente così necessarie, ma anche perché ha molto chiaro un concetto, che ci sono interi paesi, una quantità di paesi, che di mascherine non hanno neanche l'ombra né la possibilità di approvvigionarsene. È la nostra stessa situazione proiettata in termini ancora più gravi. E questo sul fronte delle mascherine. Avete sentito Galli anche con una critica, mi pare abbastanza netta, alla Lombardia e alle altre regioni, che dicono dovete mettere la mascherina obbligatoriamente, e però insomma io queste mascherine le devo poter trovare, ne abbiamo parlato lungamente ieri. Voglio andare invece alle questioni europee. Oggi nuova riunione dell'Eurogruppo, il grande tema della solidarietà europea, come funziona, come non funziona, si faranno gli eurobond, non si faranno gli eurobond, l'Olanda che fa resistenza, diciamocelo, per ragioni di politica interna, ormai sono praticamente rimasti da soli. Conte parla con il popolare giornale tedesco Bild e dice questo. In Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete, ma non potrete mai pensare di affrontare un'emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale. È nell'interesse reciproco che l'Europa batta un colpo, che l'Europa sia all'altezza della sfida. Altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé, ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore, nel modo più efficace e in modo tempestivo. Un'interessante battaglia, Claudio, con la Francia a fare da grande mediatore che cerca di guadagnarsi, no, il centro della scena europea, mi sembra. Sì, direi di sì. Naturalmente le parole di Conte sono molto tattiche, fanno riferimento ad una trattativa in atto che a mio avviso si concluderà comunque con soldi che ci daranno in una forma che poi si vedrà, che magari sarà qualcosa a cavallo tra i MES e gli Eurobond, non so bene cosa si inventeranno, ma è chiaro che l'Europa dei soldi ce li fornirà. Questo secondo me è fuori discussione, e adesso si è in una fase di trattativa in cui Conte fa anche la voce grossa. Naturalmente però c'è un punto un po' più di fondo che dispiace dirlo, anzi ci si sente anche un po' avviliti, e d'accordo l'Olanda dirà le cose che dice per ragioni interni, ma noi in questi decenni ci siamo comportati bene con i nostri soldi, con il nostro debito pubblico, con la nostra burocrazia, con le nostre politiche assistenziali? E questo è un po' un punto di fondo. Perché noi abbiamo questa scarsa credibilità agli occhi degli altri? Questa è una cosa sinceramente che fa un po' arrabbiare. Allora, e su questo ce la dovremmo prendere con noi. Poi adesso nel momento della difficoltà, getti il sasso nello stagno, vedrai, io adesso li aspetto gli ascoltatori su questa questione qua. No, ma ci sta Claudio, figuriamoci. Traffico, sperando che non ce ne sia. Tra un attimo torniamo a Covid-19, la questione del ponte, come si diceva prima, con una battuta, molti dicono che nulla sarà più come prima. Beh, dall'Italia arriva un messaggio di continuità, un segno di continuità, invece crolla un ponte. Un ponte ad Aulla, siamo in provincia di Massa Carrara, un ponte sul Magra, un viadotto che è venuto giù. Guardate, se non avete visto le foto, non avete visto i video, andatevelo a vedere perché è impressionante, perché è venuto giù tutto, ovviamente tranne i piloni, i sostegni. E meno male che c'è l'isolamento, che si gira poco. Il sindaco Roberto Velettini dice: guardate, io lo avevo segnalato. Nel 2018, dopo il crollo del ponte Morandi, il 16 di agosto scrivo una lettera all'ANAS perché faccia una ricognizione di tutti i viadotti di sua competenza. Dopodiché chiedo degli incontri, chiedo dei sopralluoghi, mi scrivono che tutto va bene, che non ci sono cose, io chiedo delle indagini penetrometriche e loro mi scrivono a novembre, ora ultimo scorso, dicendomi che va tutto bene e che, come dire, non stia ad insistere, perché mi hanno già scritto ad agosto che tutto va bene, ad agosto del 2019. Insomma, sindaco, non insista, no? Va tutto bene, il ponte è in perfetto ordine. Dice Luca De Pascale, presidente dell'Unione Province Italiane e sindaco di Ravenna, l'abbiamo sentito, sentiamo che ci ha detto, va. Abbiamo vissuto anni nei quali, fra il dibattito sulla chiusura, la non chiusura, si sono tolti completamente i soldi per le manutenzioni. Poi era stato detto che facendo passare le strade sotto ANAS tutto sarebbe diventato straordinario. In realtà non è così, e quindi noi rilanciamo e chiediamo al governo di uscire anche da questa crisi stanziando risorse importanti per le province e i comuni, che sono i migliori, quelli più bravi a fare gli investimenti e a manutentare il territorio, e di rendere anche le norme più facili, le norme più semplici, invece, per poter appaltare in fretta. In questi giorni di emergenza Covid gli uffici progettazione delle province e dei comuni sono al lavoro, in smart working, in presenza, in telelavoro, per garantire le progettazioni e portare avanti gli investimenti. E Claudio, ti faccio chiudere con una battuta. Un ascoltatore, Federico da Amsterdam, a testimonianza che tutto torna, ci scrive da Amsterdam e mi scrive: il crollo del ponte è una notizia che qui viene ripresa come prova della nostra incompetenza. No, un po' tutto torna al discorso che facevamo prima. Sì, naturalmente non è così, perché diciamo anche in Olanda ci saranno cose che non funzionano. Certo, questo è il punto, ma non dobbiamo mettere gli altri in condizione di dirlo, e per non mettere gli altri in condizione di dirlo dobbiamo comportarci in maniera virtuosa sempre, non soltanto nelle emergenze, quando poi ci sono i nostri comportamenti eroici e i medici e gli infermieri, perché noi siamo bravissimi nelle emergenze, ma noi dobbiamo abituarci e imparare a programmare, a sì, progettare e a gestire l'ordinario e a gestire l'ordinario, che è la grande questione. Allora grazie Claudio Velardi e alla prossima. Ciao Claudio, buona giornata, buona giornata. E noi torniamo su Covid-19 e sui numeri soprattutto. Allora, dei numeri abbiamo parlato tantissimo in questi giorni e ne abbiamo parlato, se permettete, male, segnalando che quelli che vengono forniti quotidianamente dalla Protezione Civile sono sicuramente dei dati interessanti, indicativi, ma probabilmente non sono rappresentativi. E infatti ogni giorno quello che vi dico, che vi do come segnale di speranza, non è tanto la diminuzione del numero di casi, il famoso plateau e via dicendo, quanto il numero di posti che si liberano in terapia intensiva, perché è quello che ci dice, insomma, che stiamo... è il caso di dirlo, respirando un po', eh? Il tema dei numeri. Noi siamo con Federico Ricci Tersenghi, che è un fisico all'Università La Sapienza di Roma e, insomma, fa parte, è collegato a questo gruppo, questa pagina Facebook, Coronavirus, dati e analisi scientifiche, nel quale abbiamo già ospitato qualcuno che è collegato a questa pagina, che tiene un po' insieme i dati che arrivano, i numeri, ci aiuta a ragionare su questi numeri, ma mi dicono che Federico Ricci Tersenghi nel frattempo è caduto, è caduta la linea, non è caduto lui naturalmente. Dunque, qual è il tema? Il tema è quello delle... Ce l'abbiamo, Federico Ricci Tersenghi? C'è, buongiorno, eccolo. Eccoci qua, cioè, era caduta un attimo la linea. Senta, ieri lei ha lanciato una sorta di allarme, dicendo sì, va bene, i dati sulla Lombardia, il grande focolaio, sono in calo, c'è un segnale positivo, e però dalle altre regioni i numeri che arrivano non sono per nulla tranquillizzanti. Allora, perché non essere tranquillizzanti? Perché bisogna essere onesti, bisogna essere sinceri e dire come stanno le cose. E in quasi tutte le regioni sono molto diverse, quindi continuare a guardare solo i dati nazionali è sbagliato, semplicemente abbiamo una visione molto parziale dei dati. Dalle altre regioni non è detto che le cose siano troppo male, però stanno evolvendo molto diversamente dalla Lombardia. In Lombardia e in Emilia-Romagna, che sono state le due regioni più colpite, e i numeri ci mostrano chiaramente che si è raggiunto un picco, ora si è superato, si sta calando, ma perché i numeri erano veramente enormi. Nelle altre regioni, forse proprio grazie alle misure di restrizione che sono state adottate dal governo, questo grande picco non c'è stato, ovvero tutti i nuovi casi, i nuovi decessi stanno avvenendo un po' più distribuiti nel tempo, quindi invece di avere, diciamo, un'onda, uno tsunami, stiamo avendo un'onda più lenta, che da un certo punto di vista è meglio, nel senso che questo mette meno in crisi il sistema sanitario. Però bisogna guardare i numeri e rendersi conto che non c'è questa enorme decrescita che uno si aspetterebbe dopo un picco. Ci sono regioni in particolare, secondo lei, che suscitano particolare preoccupazione? Io penso soprattutto al Piemonte, dove ho visto e su Torino il maggior incremento di casi in quest'ultimo periodo, e qualche preoccupazione c'è da quelle parti oggettivamente. Il Piemonte è, diciamo, tra le regioni del nord è quella che nelle ultime settimane era cresciuta maggiormente. Ora però bisogna stare attenti, perché in certe regioni guardare il numero di nuovi casi non ci dà una grande informazione, e purtroppo il Piemonte è tra queste. Sono regioni in cui il numero di tamponi che vengono effettuati è praticamente molto simile, insomma, differisce di un fattore 3 dal numero di positivi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente si fanno solo tamponi a persone che già si sa essere certamente positive, sì, che 3 tamponi per persona è la norma, nel senso che 2 servono per verificare che la persona sia effettivamente infetta, il terzo serve poi per stabilire, il terzo, il quarto per stabilire se ha risolto la situazione. Quindi se il numero di tamponi diviso il numero di persone accertate dell'ordine di 4, si stanno facendo tamponi solo a persone infette, quindi non si ha una vera fotografia della realtà. Invece, quindi il numero di nuovi casi in quelle regioni vanno presi con attenzione, perché non stanno riflettendo il numero di veri sanitario a fare tamponi. Che è il grande tema che stiamo ponendo in questi giorni. La ringrazio Federico Ricci Terzenghi per essere stato con noi dell'Università La Sapienza di Roma. È un fisico, sto un po' seguendo appunto queste questioni che hanno a che fare con i numeri, e mi scuso con gli ascoltatori per il disturbo audio, insomma la qualità audio non era eccellente, ragazzi, succede. Allora, cosa abbiamo ancora? Allora, sul fronte dei numeri. Il fronte dei numeri c'è la questione delle residenze per anziani. A partire dal Pio Albergo Trivulzio, sul quale viene aperta un'inchiesta, ancora oggi trovate sui giornali testimonianze anche di infermieri che dicono qua, guardate, la dirigenza ha volutamente nascosto le vittime. Dunque, il sindaco Sala sceglie, già in parte lo avevamo raccontato ieri, Gerardo Colombo per guidare l'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, la commissione che indagherà su questi fatti. Sentiamo Sala. La Regione ha deciso di avviare una commissione di verifica, mi ha chiesto di nominare un rappresentante e la nostra scelta è caduta su Gerardo Colombo, che ringrazio per la disponibilità. Il dottor Colombo è persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza, cosa assolutamente importante oggi. Per cui collaboriamo con la Regione, è necessario fare luce sulla situazione. Nell'ennesima stoccata nei confronti della Regione, Sala ricorda la responsabilità di queste residenze, però occhio che non è del comune, ma è delle regioni. Però sia chiaro che la sanità è di responsabilità della Regione, perché se facciamo confusione su questo punto, allora è chiaro che mettiamo i cittadini non in condizioni di capire. Su questi principi e sapendo chi è responsabile di cosa, però si collabora per capire non tanto e solo quello che è successo, ma anche per mettere a punto un sistema che dovrà continuare a lavorare in settimane e mesi assolutamente critici. E con il nostro Bob Marley andiamo verso la chiusura. Non l'ho ricordato in apertura, lo ricordo adesso. In regia c'è Peter Bescapè, c'è Laura Vanossi in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Adesso c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Come sempre, 349-238-6666 è il numero per gli WhatsApp, anche audio. Volete parlarci del ponte, volete parlarci della riapertura, del come, quando, della strategia, tutto quello che volete, ci siamo. A tra poco.